Claudio, ci sei, attenzione Claudio. Claudio, attenzione Claudio, Claudio, Claudio. Dimmi. Non sei Claudio tu. Vabbè, sto provando un apparato nuovo. Eugenio, 50, boh, ma questi strumenti sono 56, 57, Eugenio, ciao, buon pomeriggio. Marco Scotti. Ciao Marco, buonasera, buonasera. No, modulazione va OK, la radio procede. Dai, sembra che stia funzionando tutto bene oggi. Sì, sì, tutto a posto, alla grande, ti sento una meraviglia. Va bene, ma non l'hai sentito per caso a Claudio? Tutta mattina è entrato un secondo per salutare e poi è andato via, doveva fare cosa in cortile, mi sa tanto. E lui lì c'ha da lavorare. Vabbè, allora lo chiamo, se è fuori allora già riceve il telefono, lo chiamo al telefono. Babu, ci sentiamo male più tardi. Ciao ciao, buona serata. Altrettanto, ciao ciao. Ciao Franco! Sì, avanti! Rubro Fetta, buonasera Franco! Beh, ma tu vedi oggi verso l'ora di pranzo che non uscivi bene di radio? Positivo, sì, stavo provando a fare le connessioni di un palmare. Ho immaginato che qualcuno infatti ti ha dato anche dentro, controlla bene il microfono. Ascolta, sto utilizzando il Galaxy Uranus con microfono palmare e niente, se mi dai un rapportino di segnale di radio. Segnale 930, la radio è una radio normale, dai, niente di che, non è molto amplificata, non spara come l'altra, dai. È strano perché praticamente questa c'è un tastino, questa radio, per modificare la potenza bassa e alta, praticamente in HI mi dà quasi 5 watt, mentre potenza bassa praticamente quasi la metà, dai. Mi era stato detto, ma forse la versione di esportazione che dava quasi 10 watt alla potenza massima, ma vabbè, non è un problema, dai. Adesso come sei? Minima o massima? HI, sono quasi 5 watt. Aspetta che ti attenuo, ti porto a 9 e poi vediamo se tu diminuisci quanto scendi. Sì, vabbè, dai. Facciamo questa prova. E poi vediamo. Beh, adesso sei 9, prova a abbassare. Abbassa la potenza, dici? Ehi, per vedere quanto scende. Cappa, aspetta, Adesso sono a bassa potenza. Ehi, no, lascia la portante senza parlare, sono l'ago impazzisce. Cappa. Quindi scendi da 9 a 6. Non si muove, sicuramente l'antenna ti sta muovendo, può essere. Probabile, insomma. C'è un po' di USB, ma leggero, Però si vede che sicuramente qualcosa ti sta muovendo. Se tu non stai toccando niente lì, deve essere che ci sia un po' di vento in antenna. No, negativo, qua non sto toccando niente. Vedo lo strumentino, lo ZG mi indica qualche picco positivo, quindi adesso sono a bassa potenza. Dopo faccio un altro passaggio e l'aumento, dai. Ma no, è buono, il segnale è meglio da 6 arrivi a oltre il 9, diciamo di modulazione, quindi ottima per la truppa. Va bene a pilotare una bella scarpetta. Ci siamo trovati con Eugenio in verticale stamattina e ci siamo scambiati gli apparecchi, dai, gli ho dato il portatile e lui mi ha dato questo. Niente, lo stavo testando. No, va bene, c'è bene. Ho controllato dentro, si vede che era già stato toccato, sia la LC e anche la potenza in AM, si vede che la regolata già stata toccata, dai. E niente, dai, non ce l'ho giusto dato un'occhiata dentro, tramite il diagramma dello schema della radio originale, ho visto le varie variazioni. Comunque, vedo che funziona bene, adesso voglio controllare, mi sembra che sia fulminata la lampadina che illumina il display, quello dalla parte sinistra, perché è molto illuminato dalla parte destra, però dalla parte sinistra è buio. Vabbè, piano piano già lo mettiamo a posto, dai. Sì, quelle sono fesserie. No, sembra abbastanza stabile. Invece il microfono è normale, il mic da palmo, normale? Sì, l'ho riciclato dal vecchio baracchino che avevo tempo fa, che mi ha abbandonato, dai. Il microfono della Sashi, quello dinamico, dai. È un microfono dinamico, palmare. Ma già va bene, dai. E invece quello da combattimento, l'M95? Devo cambiargli le connessioni per collegarlo qua, perché questo è tipo Midland, capito? E non va bene, perché le connessioni del Superstar, del Super Jobix, sono diverse. Anch'io ho dovuto cambiare quello lì. Io ho tutte e due le connessioni qua, sia il mio è del Galaxy, oppure di quando lo compri. Quando lo compri non va bene sul Galaxy, diciamo, delle connessioni diverse, sempre a 4, però le ho dovute cambiare per andare con questo, col Galaxy. Questo qua, ti ripeto, l'avevo già conservato, agito. Vediamo un po', perché più o meno questo apparecchio ha le stesse connessioni dell'Alan, e quindi l'ho infilato e ha funzionato alla grande. L'altro, quello che mi ha dato coso Eugenio, invece si vede che è già stato toccato nei piedini, infatti adesso voglio cercare di riportarlo alle condizioni originali, dai. Io, se ti interessa, non ce ne ho le connessioni di due apparati, però non so se vanno bene nel tuo caso, Io ho dovuto modificare lo stesso. Ho tutti i numeri segnati, in base al colore o il numero dei piedini. Anche io no, ho scaricato da internet diverse variazioni a seconda degli apparecchi, no? Praticamente delle connessioni dei piedini, ho visto che ci sono diverse specifiche. No, ma adesso la cosa più semplice che posso fare è smontare lo spinotto di questo microfono, aprirlo, controllare le connessioni, vedere i colori e fare la copia sull'altro. Non sempre i colori coincidono, capito? Non sempre. Per esempio, questo è l'M95, originale, diciamo. Il giallo, il giallo per esempio era nel numero 1, invece io ho dovuto metterci la calza nel numero 1 e il giallo metterlo nel numero 2, sempre seguendo la numerazione che c'ha lo spinotto. Il rosso era nel 3 e invece ci ho dovuto mettere il nero, e il nero era nel 4 e l'ho messo invece nel 3, quindi al posto del 4 c'è il rosso. Ci sono queste piccole variazioni a seconda della marca e dell'apparecchio. Dai, tutto sommato vedo che sta funzionando tutto bene, quindi niente, dai. Magari se non ti scoccia possiamo provare a fare un paio di passaggi in FM per vedere cosa dice. Prova, il mio, ripeto, non è un granché in FM, perché no, sono tutti apparecchi di 30-40 anni fa, non sono stati mai tarati. Proviamo, dai. Cappa, sto passando in FM. Mi senti, Franco? 1-2-3, 1-2-3, teste radio, Intec, Galaxy Urano, 1-2-3. Sì, io sono stato anche leggermente in per frequenza, sì, sono stato in per frequenza, 0-40-1, non mi toccate per appena, sto sentendo chiaro, però va bene. No, io ti sento perfettamente, sei centrato 750. Sì, è come il Jupix, il mio, lo stesso, in FM mi devo spostare un TC per sentire la modulazione chiara, dai. Comunque, vedo che funziona bene anche in FM. No, c'è anche le bande, no? Positivo. Proviamolo in uniform squadra, bravo, dai. Mi senti, Franco? Fai un passaggio più lungo che ti devo centrare. Vai ancora. E Eia, sì, ho dovuto toccare un po' il clarif per ascoltarti. Comunque adesso ti ascolto bene, dai. K, e tu come mi ascolti? Perfetto, perfetto. Dai, 750, io ti ho appena spostato il clarifer per ascoltarti, però adesso ti sento forte e chiaro, dai. Sì, boh, guarda, adesso sto guardando lo strumentino, non è che si disposti così tanto, dai. Eia, volevo dirti una cosa adesso. Adesso mi sfugge, mi sta sfuggendo, quando me lo ricordo te lo dico. Ma vabbè. Ehi, ritorno in AM. Già. Avanti. Un attimo che scendo giù a prendere una cosa. C'è un pacco. Ehi, fai con comodo, tranquillo. Già. Ci sei? E sei così basso già? Ciao Claudio, buonasera. E allora? Ciao, buonasera. Perché sei così basso? No, sto provando un'altra radio qua, il Galaxy Uranus che mi ha dato Eugenio. Ah, mamma mia, ce l'ho anch'io dentro l'armadio, cazzo, mi ho rotto la riballa. Anche quella, quando l'accendi devi andare a cercarti il canale, se no si andrà a 26, così è. Positivo, eia, vabbè, alcune funzioni le conoscevo già, ce ne sono altre, però per la memorizzazione, per altre cose, che insomma, sono sconosciute. Stavo cercando il manuale su internet, ma no, non lo trovo. Già, neanche io ce l'ho perché l'avevo comprata a seconda mano. E non mi avevano dato il manuale, nuovo, ma non lo uso mai, sai perché? L'ho acceso una volta a provare, tutto a posto, ogni tanto così per vedere, e mi ha rotto le palle. Ogni volta che la spegni se ne va a 26 MHz, devi stare lì ogni volta, 27, mettere il canale, poi lui, in piazza la goccia più semplice, che goccia di cucino, non è che vado molto d'accordo. Immagino, no vabbè, è la prima volta che lo vedo, che lo uso, quindi sto cercando un po' di capirci qualcosa. Ascolta, allora, praticamente c'ha due modalità di trasmissione, una con la potenza bassa, una con la potenza alta. Praticamente in potenza alta mi dà quasi 5 watt a strumento, in potenza bassa più o meno la metà. Anche il tuo è così? Sì, è così. C'è scritto un sacco di stronzate, 15 watt, 20 watt in SSB, ma 5 watt è la stessa radio. Da 3 watt e mezzo neanche a potenza bassa e 5 watt a potenza alta. Eccomi, buonasera Claudio. Ciao Fra. Eia, confermo, sì, qua lo strumentino mi sta dando quasi 5 watt, dai, in trasmissione, in AM. Poi devo capire, insomma, perché qua c'è una funzione anche per la calibrazione, c'è praticamente la possibilità di misurare, c'è un piccolo orometro incorporato, insomma, per le stazionarie, ma per adesso non mi interessa. No, più che altro volevo iniziare a memorizzarmi qualche frequenza, capito? Ma non ti affidare a quello strumentino, che è uno strumentino del cacchio, capito? Ok, riprendi fra un attimino e ci sentiamo subito, ok? Ehi, ma hai toccato qualcosa? Chi, io? Si è abbassato un po'. Ma di segnale? Ehi, no, tornando con 10 watt, fra, non è posso stare sempre a manettone, no? No, era una curiosità, infatti, detto, sicuramente ha abbassato qualcosa, dai. No, tranquillo, tornando con la minima potenza, sto usando il 430, l'amplificazione è 1,5, mi interessa la radio, cioè è sempre la stessa. No, non ho problema. così, era solo una curiosità per vedere se era tutto ok, dai. Bene, veda, scusa un po' il bianco, Gianni. No, non ti preoccupare. Ascolta, Claudio, prima di andare via, mi dai un rapporto di segnale e di radio? Fa la cortesia. La radio è bellissima, però il segnale non è il tuo, perché io sono abituato ad ascoltarti 9.5, non sei neanche 9. Eppure ho controllato, l'ho aperto, ho levato il coperchio, ho visto che è stata toccata il trimerino della potenza, ma insomma, è così, per carità, non c'è da aggiungere altro. Dai, no, era giusto per capire più o meno così a grande livello la differenza con l'altra, dai. L'altra è molto più forte, con questa c'è più picchi di modulazione, capito? Da quasi 9 vai a 9, mentre con l'altra sei 9,5 stabile, però tieni conto che l'altra da 10 watt pieni, 8 watt, 10 watt, cioè sono tanti, capito? Questa ne vende 4, 5, ce ne vende, è uguale a quella mia, c'è scritto un sacco di stronzate, e invece da 5 watt con la radio, 3 watt con la potenza bassa. No, il Jupix l'ho rimesso praticamente come era originariamente, cioè sono quasi 4-5 watt a strumento, dai, l'ho rimesso, non gli ho tirato più il collo, dai. Allora da tanto io non ti sento, però quando io mi sono trasferito qua, che avevi la massima potenza in quella radio, che di 9+5, adesso non lo so, capito? Eia, dai, considera che sto usando un microfono palmare normale, dinamico, non amplificato, quindi va benissimo così, dai, è giusto per metterla a correre. Bella la radio già, bellissima radio, corposa, bella chiara, forte, no, non ci sono problemi, anche se il microfono è normale, va bene. Ok, Fra, riprendi tu, dai, io mi assento, ci sentiamo dopo, ok? Eia, siamo qua, dai. Ricordami che radio stai usando, provo a guardare qualcosa su internet già. Eia, allora, stavo cercando il manuale di istruzioni, però non lo trovo, anche per capire come memorizzare le frequenze. Allora, Intec Galaxy Uranus è praticamente la fotocopia delle RC 2009. Galaxy Uranio? Uranus. Ok, ed è cos'è? Un veicolare, cos'è? È un veicolare a sintonia continua, da 26 a 29. Ok, allora proverò a guardare anche io qualcosa, se trovo qualcosa. Avanti Giulio, hola, buonasera. Ciao Franco, buonasera a te e buonasera Gianni. Avanti Gianni. Buonasera Giulio, ben entrato e ben ascoltato, buonasera. Ok, saluto di nuovo. Sì, ce l'ho anch'io con il baracchino lì, ce l'ho io, ma il mio è 789 della sopra, tanto. Ma è una porcheria, troppo complicato. Da 26 a 32 MHz, ma tutte le volte quando lo spegni deve ripartire da 26, per carità, lo metto da parte e non l'ho più visto. Non so nemmeno in quale angolo ce l'ho buttato, penso un po'. Va bene, dai. Poi ci sono quei tasti che ogni tanto si bloccano, poi li devi sbloccare, insomma è una complicazione continua quel baracchino lì. Va bene, perché quando funziona va bene, non è che non vada bene, però è troppo complicato, c'è da perdere la testa, io pazienza per queste cose non ne ho più ormai. Vabbè, avanti Franco. Io pensavo, ma Giulio gli può dare qualche dritta per come farlo funzionare, invece ormai sei parecchio che non lo usi, quindi Giulio, confermi? Sì, l'ho messo da parte, non l'ho più acceso, non l'ho più toccato, anzi non so nemmeno in quale angolo dell'armadio ho messo sul Massada, se puoi immaginare, per cui no, è troppo complicato. Ripeto, funzionano bene, ho fatto anche dei collegamenti molto interessanti in banda laterale negli anni che esisteva lì a Usilo Serafino, andavamo in un certo canale insieme e facevamo dei collegamenti belli veramente, anche Ulvia sentivo, pensa un po', anzi mi sentivano, non sentivo io, mi sentivano loro a me, per cui, però è troppo complicato. una radio che non spegne la memoria, una volta che lo spegni spegne la memoria di dove l'avevi sintonizzato prima, e parte da 26, la 26, e poi deve fare tutta un'altra fila che se non lo usi frequentemente te lo dimentichi anche come il funzionamento. Vabbè, dai, avanti Gianni. Eia, eia, sì, questa qua fa da 26 a 29, credo, 29, 9, quasi 30, dai, e niente, adesso vabbè, piano piano a Sant'Arrangia ti vedo un attimino com'è il funzionamento, almeno per memorizzarmi giusto quelle due o tre frequenze, poi nella speranza che riesca a trovare il manuale d'uso, perché ho trovato il manuale di servizio, quella per le tarature e le riparazioni, però il manuale d'uso non ho, ancora su internet non l'ho trovato. Senti un po', come mi dà il rapporto di segnale e di radio giù? La radio è bellissima, non c'è da che dire, anche il segnale da me arriva bene, 9 più 10, per cui non c'è niente da dire, praticamente il tuo segnale qua, no, quello sì, però ripeto, in banda laterale dovrebbe dare 21 watt, perlomeno quello che ho io da 21 watt, ma il mio, ripeto, è uguale, perché è la stessa radio, solo che ha diverse modi di essere chiamato. Ad esempio il mio si chiama 789, cioè 789 della Sommerkamp, è quello, è l'Uranus, è pure l'RC, eccetera eccetera, la radio è sempre quella. Scusa Gianni, il manuale te lo ritrovi o Giulio per caso? Non so cosa dirti, fra, può darsi che da qualche parte ce l'ho, a meno che non l'abbia buttato in mezzo a tutti i libri che avremo nelle riviste di elettronica, non lo so, non so cosa dire. Pazienza, dai. Avanti Gianni, io do uno sguardo su internet. Io ho provato poco fa con Franco, ma questo qua in banda laterale quei watt lì non li dà neanche a pagarlo. È proprio una chimera, un miraggio, dai. Mantiene i suoi e ciccia, non spinge poi così tanto. Ok, io l'avevo messo da parte principalmente perché c'era un tasto, quello, aspetta, qual era? 7, mi sembra che sia il tasto 7, dove c'è scritto 7, che di tanto in tanto si incantava, allora, e mi faceva perdere la pazienza. Poi l'avevo lubrificato con quella specie di CRC da precontatti e funzionava, andava bene. Dopo un po' di tempo di nuovo lo stesso problema, sempre in quello tasto lì. Insomma, era una tragedia, nel senso che ti fa perdere veramente la pazienza. Però come radio va bene, ma molto bene, ripeto, 21 watt in banda laterale a me mi dava. Per cui aveva una ricezione sino ai 32 MHz, era eccezionale, poi andava a sintonia continua e anche a canalizzato, devi trovare la combinazione perché si può sintonizzare anche a canalizzato, però ripeto ancora una volta, devi avere molta pazienza e poi devi utilizzarlo sempre, molto spesso, perché se no perdi di nuovo la memoria di come funziona e ti fa diventare scemo, guarda. Ho capito, vabbè, Eugenio me l'ha dato stamane, ci siamo visti, me l'ha dato stamane, quindi adesso devo sistemare l'altro palmare, le connessioni, praticamente copiarle uguale identiche a questo, perché il microfono che mi ha dato insieme alla radio non andava, quindi adesso, siccome ho lo spinotto completamente aperto, mi sa che adesso mi dedico a cambiare le connessioni, così almeno sistemo anche l'altro e poi eventualmente lo provo, quindi faccio un altro paio di passaggi e mi chiude il microfono, dai. Ok, sì, vabbè, d'accordo Gianni, no, io non lo faccio in quel modo, la connessione del microfono non la faccio in quel modo, io prendo sempre uno spezzone e è uno spinotto che si attacca al baracchino, si attacca, ci saldo i cinque fili, ci saldo questo spinotto e l'attacco al baracchino. L'altra parte sono spelati e basta, non faccio altro che prendere i fili spelati appena appena e li inserisco dentro lo spinotto del microfono. In un attimo trovo la combinazione, proprio 5 minuti, non di più. Dopo che ho trovato la combinazione controllo i numeri dello spinotto, su quale colore di filo ho infilato, faccio lo schemino e allora saldo con la massima sicurezza, senza nessuna perdita di tempo e niente. O Gianni, scusa Franco, riprendi già. Ehi, ehi, no, ma praticamente li ho controllati, corrispondono anche i colori. Adesso faccio, ho fatto due prove stamattina ma non andavano bene, adesso praticamente voglio provare a fare le connessioni tipo Midland, che dovrebbe essere uguale a questo, quindi rimposto le connessioni praticamente a tipo Midland, tipo alla 48, e vediamo un po' se va il microfono. Dovrebbe andare, comunque. Ok, io utilizzavo il Tanner più 3, utilizzavo con quel barattino e devo dire che il Tanner più 3 battono solo tre contatti, tre fili solamente, perché siccome è un baracchino che ha la recessione, non ha bisogno di altro, bastano, io sto parlando del Tanner più 3, tre fili e tu ottieni il massimo dal microfono, però ripeto, devi avere il Tanner più 3, solo con quello penso che sia possibile il collegamento con solo tre fili solamente. Avanti Franco. No, tranquilli, io intanto mi stavo documentando. Qui parla di modifiche, come aumentare la modulazione, per esempio, bisogna eliminare il TR32 e si aumenta la modulazione. Lo stesso eliminando sull'Uranus il TR33 sull'Uranus. Mentre per effettuare la modifica XM80 bisogna intervenire eliminando la resistenza R284 e sostituendola con una di M80. Non lo so. Ci sono modifiche. Sono su Roger K, mi sto leggendo. Gianni. No, quella roba lì l'ho scaricata anch'io, cioè il service manual l'ho scaricata anch'io con tutte le specifiche, il diagramma dove praticamente ci sono indicate le regolazioni a livello di trimmer, no? Per il micro gain, per l'aumento di potenza, ma l'ho aperto e quelle cose sono state già toccate, capito? Vabbè, lascio tutto così. Adesso infatti va, visto che ho ancora il saldatore e i cacciaviti in giro, mi chiudo l'altro spinotto del microfono e casomai ci sentiamo dopo, dai. Quindi proseguite, dai. Io mi sistemo l'altro microfono, dai, a dopo. Ehi, a capa? Ok, io intanto mi sto sempre frugando qua, ormai mi hai messo la curiosità. Avanti Giulio. Ok, d'accordo Gianni, ci sentiamo allora, dai. Buon lavoro allora, divertiti, non perdere la pazienza, non fare come ho fatto io, se no ti viene di metterlo da parte e non lo guardi più col baracchino, per cui se hai intenzione di utilizzarlo, armati di santa pazienza, se riesci, perché ci riesci a trovare la combinazione, non ci sono dubbi, però poi lo devi utilizzare un po' frequentemente, perché se no te lo dimentichi, perché a me è successo così e anche ad altre persone succedeva così. Ti dico questo perché prima di averlo io, quello che ho io, ce l'aveva Tonino di Usini ed era lo stesso problema, anche lui aveva avuto lo stesso problema, poi era passato a me questo, anzi per la verità prima era passato a Emanuele Buonanima Ponzio Pilato, che ormai non c'è più, è morto già da oltre 10 anni. Emanuele, anche lui non ne aveva capito niente e l'aveva dato a me, l'aveva dato, che tra l'altro non funzionava nemmeno. Io l'ho riparato io personalmente, senza darlo a nessun tecnico, e poi l'ho fatto funzionare per anni, e facevo molte equazioni insieme a Serafino di Usilo, il pastore di Usilo, e poi da lì mi sono stancato perché era troppo scocciante, perché bastava che me lo mettevo da parte per 15 giorni e non mi ricordavo più come era il funzionamento, era scocciante veramente. Vabbè, avanti fra. E qui parla Aria Download del sito Roger K, come fai ad andarci Giulio? come fai ad andare nel coso? Io scrivo quello, aspetta, cosa che scrivo per andare sul non mi ricordo nemmeno, anche lì sono un po' di tempo senza andarci adesso. Roger Capo, basta, io tipo Roger Capo, basta, niente di più. E mi apre quella pagina lì. E poi man mano che vado avanti, se non faccio altro che scegliere le pagine, alla fine c'è scritto modifiche, eccetera, eccetera. Apro quella pagina lì e vedo tutte le modifiche che fanno le varie persone, capito? Qua mi dice di andare nell'area download. Vedete, questo ha messo in rete il manuale, però in inglese, del modello che dici tu, cos'è, del Sommercamp mi sembra. Però devo trovare qual è l'area download dove lui ha inserito questo manuale. Questo non te lo so dire. PDF, devi trovare il PDF per poter provare a scrivere così. PDF 789 Sommercamp, può darsi che ti dia qualcosa, non lo so. Ho messo la cercata, non lo vado, però mi sta portando, casino. Infatti, no, ripeto ancora una volta, la radio è bella, funziona bene, una bella moderazione, una bella recezione, la radio è abbastanza chiara quando moduli, però è snervante, almeno per me è snervante, poi per gli altri non lo so. Forse devi essere registrato al sito Roger K, se no non ti fa entrare nei download, capito? Io non sono registrato, quindi sicuramente non mi fa vedere tutta la schermata delle opzioni. No, io non sono mai stato iscritto lì, io scrivo solamente Roger K e basta. E mi si aprono diverse pagine, le faccio sfilare con le pagine lì, poi alla fine trovo sempre qualche notizia di modifiche, eccetera, eccetera. Più in basso, una volta che hai fatto sfilare tutta la pagina, ci sono sempre delle indicazioni, ad esempio dove c'è scritto vai, puoi cliccare su quello, oppure modifiche che so io di CB, eccetera, eccetera, vai su quelle cose lì e ci si aprono altre pagine, poi ci sono lì varie opzioni, ci sono per le modifiche, insomma, io non è che sono bravo col computer, la verità, però queste cose diciamo che me non le riguardo così. Sì, no, le discussioni le leggo tutte, mi interessava sapere dove... Qual era l'area dedicata ai download, cioè dove la gente si scarica, tipo in questo caso, il manuale d'uso, capito? C'è scritto che lui l'ha messo sull'area download, però forse quell'area lì non la vedo perché non sono registrato. Noi vediamo tutte le discussioni, quello che pubblicano loro, diciamo, sulla pagina, però l'area download forse non la vediamo perché non siamo registrati. Penso che sia così, poi magari mi sbaglio. Vediamo se Gianni può riprendere. No, negativo, riprendi giù. Ok, sì, sarà pure così perché non siamo registrati, ma io non l'ho mai fatto e non, penso che non lo farò mai la registrazione. Mi accontento di leggere le cose che scrivono loro, le domande che fanno, le risposte, eccetera, eccetera. Per cui non so cosa dirti, ripeto, io il computer non è con molta manualità, anzi sono proprio scarso, proprio, anche perché non mi ha mai attratto più di tanto per approfondire la conoscenza, eccetera, del funzionamento. Io mi sono sempre limitato a vedere il giornale, dove Sardegna, Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, e qualche pagina di elettronica, eccetera, eccetera, oltre che a vedere magari vintage, cioè queste, eccetera, eccetera, sempre su YouTube. Io vado su YouTube, io ci vado molto spesso perché ci sono i video e lì mi piace anche. Sì, poi un sacco di volte sono anche semplici da capire, sono spiegati bene quei video, quei tutorial, e quindi io a volte lo uso per quando non mi ricordo certi nodi da fare per la pesca, no? Come legare certe cose, come unire due lenti di calibro diverso, quando non sono operazioni che non fai spesso, a volte te ne dimentichi, allora vado sui tutorial, una rinfrescata e via. E poi ho fatto a scrivere così, video YouTube, su YouTube, un video 789 Sommerkamp. Forse che ti dia qualche informazione. Io alla volte quando ho necessità di vedere qualcosa la faccio così e lo vedo direttamente in video, e generalmente c'è sempre un video relativo a tutto quello che chiedo. Adesso provo, vai. Ok, YouTube 789 Sommerkamp, tu scrivi YouTube video 789 Sommerkamp e vedrai qualcosa che si apre. C'è, questo lo sta vendendo 18 euro. Ma è successo che mi si è spenta la luce, scusa. Ehi, c'è, questo lo sta vendendo 18 euro il manuale. Ah, ho capito. Allora se uno è interessato si può anche richiedere, sempre che sia valido per la spiegazione che a una persona occorre, perché quello che serve è appunto il manuale di funzionamento, poi per il resto poco ci interessa, anche perché ha lo stesso circuito del Galaxy, è uguale, ha gli stessi trimmer e tutto quanto, quel tipo di baracchino, per cui non è così facile da riparare, eccetera, ed è tanto meno da regolare come da LC oppure il power della potenza, tutte queste, gli stessi trimmer della Galaxy Saturn Echo oppure del Pluto e altre marche tipo il Cornex e tante altre marche ancora, sono tutte uguali. Sì, è come questi che io, lo stesso Galaxy, Pluto, Samurai, Super Galaxy, alla fine cambia ben poco, un po' di estetica e basta, l'interno è uguale. Sì, ma è così, infatti è così, perché ogni ditta si va a fare il logo su sua richiesta, capite? Aspetta che stavo con questo, ecco, avevo un ricevitore acceso. Stavo dicendo, ogni ditta si fa fare il logo su sua richiesta, a suo nome, e poi magari le dà anche un nome diverso, le dà, però in realtà il baracchino magari ha 10, 12, 15, 15 imitazioni, tutti uguali, come modulo di componentistica, eccetera, per cui non c'è problema. Sì, è vero. C'è anche su subito.it qualche CP di Brindisi, anche lui lo sta vendendo 18 euro, sarà la stessa persona di poco fa. Manuale Sommerkamp oppure Galaxy Uranus, lui sa che è uguale, quindi li ha messi tutti e due. Sì, sto dicendo, è uguale, sono sicuro al 100%, è la stessa radio, non c'è che dire, è proprio uguale dentro, sia esteticamente che anche interno, cambia solamente la marca, il nome come viene chiamato, niente di più. È un po' come il Superstar stesso, ci sono roba di 15 radio che sono tutte Superstar come sistema di modulistica, eccetera, però ognuna di questi ha il suo logo, per cui perché magari una ditta lo richiede in una maniera e lo chiama in una maniera, però in realtà ci sono, io ce l'ho una lista del Superstar e ci sono 15 radio tutti esattamente uguali nella maniera più precisa possibile. Ecco, avanti Brecker. Buonasera a tutti, Natalino Alfa 1. Buonasera Natalino, sono compagnia di Giulio e Gianni che è un po' in Querex, sta chiudendo qualche radio. Avanti Giulio. Ok, ciao Natalino, ben entrato, avanti di primi. Ciao Franco, ciao Gianni, chi? Non ho capito chi Gianni era. Gianni Lubrofetta. Ciao Gianni, buonasera. Ben sentito, non te lo posso dire perché è appena acceso. Io ho sentito solo a Giulio e a Franco. Avanti Franco. Mi sa che l'ho trovato, aspetta che glielo invio a Gianni. Riprendi Giulio, alla cortesia. Ok, d'accordo. Sì, Natalia. In questi giorni, se avessi avuto modo di poter fare lavoro, tu saresti stato agevolato per quel bel tempo, Natalia. Anche domani sarebbe una bella giornata, per cui fattibile, anche sabato, sarebbe fattibilissimo il lavoro che deve fare nel sostituire l'antenna, eccetera. Lo so, mi manca l'ultimo pezzo del palo, e quel che non va bene ed è troppo corto, capito? E quindi devo prendere uno della sezione che va bene, però almeno di 4 metri. Ma Natalia, non ti complicare la vita, te la spiego subito il perché. Tu vai da Bricome, ci sono le pale da 6 metri, cioè sono tre sezioni da 2 metri d'uno, sono, e c'è quello leggero e quello più rinforzato. Ti prendi uno di quelli da canocchiare, zingato, e sono belli, perché io li ho visti, e per mettere la manto, e per mettere la Game Master vanno più che bene. Ed elimini completamente questo palo che hai adesso, tanto vuoi comprare un altro palo, più o meno spendi quella cifra, e poi te lo devi anche preparare con bulloni e palle varie. Mentre invece in questa maniera fai da Bricome, è già ben confezionato, c'è quella sezione più grossa e quella sezione più sottile, se poi ti serve un allungo, ci sono anche pezzi da 1 metro che potresti mettere come master, come elemento master, per poter infilare il tubo da 6 metri addirittura o da 3 metri. Così non hai molto lavoro da fare, ce l'hai già pronto, 23 euro costa questo tubo e va più che bene, guarda. No, non va bene, perché solo il palo che ho è 10 metri, me ne servono altre 4 di metri, perché c'è solo 2 metri dal tetto, me serve un tubo da 4 metri da infilare nel palo che c'è già. Hai capito cosa ti voglio dire? 6 metri di cosa posso? Niente. Cosa vuoi che ti dica? Se tu ritieni che non ti vanno bene, vabbè, lo sai tu quello che devi fare. Però se cominci a mettere tutti quei metri di palo, poi è anche pesante a tirarlo su, perché l'antenna è leggera, ma il palo diventa pesante. Anche perché col tipo di palo che vorresti comprare tu, comincia a pesare, non è certamente come quello che ti sto dicendo io. Vedi tu, insomma, ecco. Vedo io sì, perché so io come lavoro. Se il palazzo è alto 9 metri non posso mettere un palo di 6 metri, cosa me ne faccio di un palo di 6 metri? Niente. Sì, ma devi considerare, se il palazzo è alto 9 metri, devi considerare che tu parti dai 3 metri, perché sei già tu al primo piano e sei già ai 3 metri. E dunque la fine del tubo sarebbe lì, nella zappa che hai nella finestra di casa tua. Poi tutto il resto di 6 metri raggiunge il limite del coso, del tetto. E fuoriesce l'antenna di ara grande, per cui secondo me va bene. Poi vedi, poi tu Natali sai tu come devi fare, no? Io non ti voglio dire niente, però secondo me va bene così. Devo prendere un palo da 4 metri, l'ultimo pezzo che entra praticamente della sezione che entra lì, un palo zingato, prendo e ci schiappo l'antenna, ecco cosa devo fare. Sì, io ho capito che vuoi prendere un palo a 4 metri, però poi voglio vedere come fai a lavorare. Io ho tutto un concetto, tutto mio personale, nella posizione dove sei tu, io personalmente sarei in grado, non sono così diciamo così sprovveduto in quello che ti sto per dire, ma io da solo piacerei l'antenna con quel tubo telescopico che vendono lì da Bricome, da solo, col sistema che io ho in mente, perché è un sistema fattibilissimo, con pochissime fatiche oltretutto, e sono più che convinto, eliminando tutto quel palo lungo che hai tu. Se tu stesso mi stai dicendo che il palazzo è alto 9 metri e ci siamo, sono d'accordo con te, però il palo tuo parte da 3 metri da terra, dunque sono 6 metri, che è la lunghezza esatta del palo che vendono da Bricome, e fuoriesce tutta l'antenna, fuoriesce a livello praticamente di bobina, ti arriva, per cui secondo me va bene, è leggero da lavorare da solo addirittura, tanto più che ti danno la possibilità di salire nel piano di sopra, però devi fare un accorgimento prima nel piano di sotto dove abiti tu, per poter infilare l'antenna, e cioè mettendoci un master, si infili direttamente poi il tubo dentro lì, il master significa un altro tubo da un metro, fissato al destato che è vicino alla finestra. Poi il tubo da 6 metri è leggerissimo, compresso con l'antenna, lo puoi infilare e direttamente dentro questo tubo che è leggermente più grosso, che poi sarà fissato tramite bullone. Tu mi dirai, ma è da solo lo puoi fare, perché quel tubo master ci mette un tappo sotto saldato, sicché il tubo quando lo infili dentro non scenderebbe più di quel metro. Allora cosa succede? Che hai la possibilità di montare l'antenna una volta che è infilato dentro, essendo leggero il tubo a cannocchiale e più i 2 kg di antenna, non è così rischioso da fare il lavoro. Poi l'altro collegamento, l'altro pensaggio te lo faresti nella finestra di su sopra casa tua. Allora, il tubo c'è già da infilare il palo, perché è una staffa a pipetta di quelle per il satellite, capito? E va infilato lì il palo. A me mi servono 4 metri per uscire fuori dal tetto di almeno 3 metri. Perché se no, se tu non hai un palo da 4 metri non esci da nessuna parte. Cosa metto? L'antenna in terra? Ma non la puoi giuntare, Giulio, non si può fare quel lavoro che hai detto tu. Inizialmente anch'io ho pensato così, ma non si può fare, perché l'antenna va assemblata a terra. Anche il telescopico va messo a misura a terra e poi infilato nell'altro tubo, non lo puoi, una volta che l'antenna è attaccata a quella staffa, infilata come hai detto tu, non puoi sfilarli i tubi, non puoi, ma come fai tu da una finestra a sporgerti e tirare il tubo col peso e portarlo sino all'altezza del tetto? Non si può fare, per fare quel lavoro che stai dicendo tu ci vuole l'autoscala e basta. Allora è un altro discorso, allora si può mettere in atto quello che hai detto tu, ma diversamente quell'antenna è da assemblare a terra e poi innestare nell'altro tubo, non ci sono altre soluzioni, perché parte da 2,5 metri da terra. Se fosse stata a terra la staffa allora è diverso, ma la staffa è 2,5 metri dall'altezza del piano terrale, non si può fare, ti tronchi la moramana del godo. No, mi sono chiamato io o non mi avete proprio capito per niente. Intanto quella staffa che a lui, quella va eliminata, primo, e vuole messa una doppia staffa per poter piazzare un master lungo un metro, che sarebbe un tubo più grosso del tubo del cannocchiale. Una volta che hai fissato quello, tu piazzi anche l'antenna per terra, non ci sono problemi, la pugni per terra e dalla finestra la tiri su. Un'altra persona ti può aiutare da su per mantenerla in equilibrio, in modo che tu puoi infilare il tubo dentro questo metro. Una volta che l'hai infilato dentro questo metro, la puoi anche lasciare andare, perché non si rovescia più. E non lo dire a me, perché io ce l'ho così il sistema, e da solo ho messo 6 metri di palo più tutta l'antenna Mantova addirittura, per cui non come dire, ma tu l'hai fatto d'accordo, perfettamente d'accordo, però nella posizione che lui si piazzerebbe le staffe vicino alla finestra, proprio vicino, una sotto e una sopra, si fisserebbe questo metro di tubo che sarebbe il tubo master, e poi piazzi l'antenna e tiri su anche il tubo, la metti per terra in strada, poggiata per terra in strada, dal primo piano tiri su il tubo, al secondo piano c'è l'altra persona che te la mantiene in equilibrio, tu la infili dentro il tubo, la infili e lo puoi lasciare di tutto il palo intero completo con l'antenna. Anche quello che c'è su, che ti sta dando la mano, lo puoi lasciare, puoi salire su con un'altra staffa di doppi, fai un'altra staffa adeguata per bloccare il tubo, tutto lì, è facilissimo, guarda, è facilissimo. Certo non lo puoi fare con la mantova, con l'antenna, con il radiale, non di certo, ma con la Game Master si può fare, tranquillamente. è già pronto. Lo stesso sistema che stai dicendo tu è stato fatto per montare quell'antenna, perché il master è quello che è infilato in quella staffa che lui c'ha, ok? È quello funzionante da master, come non è adesso Giulio che piazza antenne, lascia perdere, quindi non l'ho studiata bene e non ce n'è riuscito nessuno. Ho paura, io non l'ho temuto. Il master c'è già, però è troppo lungo, ok? È troppo lungo. Quindi Natalino cosa ti sta dicendo? Siccome quel master è già attaccato a quello lì, c'è bisogno di un altro tubo intero, intero, ok? Perché quello è forato, quindi scende giù. Quello è un 50, ok? Quello è un 2 pollici. Allora bisogna prendere un tubo da un pollice e mezzo, infilarlo dentro, ok? Da 4 metri però, non da 6 metri. Oppure un 6 metri telescopico da 40-35, ok? 6 metri, 2, 4, 6. A 35 lui ci attacca l'antenna, ok? È un 3 quarti, un pollice, ok? Un pollice, e ci attacca l'antenna. È la stessa cosa che stai dicendo tu, solo che lui altre staffe lì non ne può mettere. L'antenna non può andare più in basso, perché se quell'antenna va più in basso, ni l'Italia, ni l'Ovviro, ni le Srazzani, ni la Bogani. Ma non deve andare in basso l'antenna. Il tubo che ti sto dicendo come master deve essere coperto sotto. Deve essere, tu piatti due staffe, uno sotto e uno sopra, per fissare il tubo da un metro. Mi stai seguendo? Però questo tubo non è bucato sotto, ci deve mettere una placca saldata in modo che quando infili l'altro tubo ti rimane dentro, imprigionato, non si può più muovere il tubo. Non mi sembra che sia così facile da capire quello che sto dicendo. È utilizzare il tubo a cannocchiare, che è molto leggero e ti dà la possibilità di lavorare alla grande, a differenza dei pali che volete mettere voi, che sono pesantissimi. Lì sì che c'è da faticare veramente, e non è possibile. Io la vedo in tutt'altro modo e sono convinto che vuole solo l'aiuto di un'altra persona su, che quando tiri su il tubo tutto intero con l'antenna già piazzata e ti mantenga il palo in equilibrio dalla finestra sua, dalla finestra dove abita lui, Natalino, lo imbocchi dentro quel tubo master. A quel punto lì, una volta che è infilato dentro il tubo master, tutto il palo intero può rimanere da solo, non si rovescia più, non si rovescia. Poi sali su e ti blocchi il tubo per non ondeggiare poi. Però nel momento non c'è più nessun rischio, perché una volta che l'hai tirato dentro il palo master, poi c'è il bullone e stringi e te lo sistemi. Ma dopo un secondo tempo, quello che conta è infilare prima il tubo dentro il master, sali su nell'altra finestra di su e blocchi lì con l'altra staffa adeguata. Anche lì deve fare una staffa adeguata, è ovvio, no? Questo è normale. Una volta che blocchi, scendi giù e stringi anche il bullone del tubo master. Mi sembra che sia talmente semplice per poter fare questo lavoro, ma solo con i tubi leggeri, non con i tubi pesanti. È già così, è già telescopico, Giulio. O giù, o non mi capisci o vuoi capire solo tu. Ti sto dicendo che quella staffa è fatta apposta per non scendere il tubo, non c'è bisogno di tappo, e ne l'ho fatta apposta. Quella staffa AU non dà la possibilità al tubo di scendere, nessun tubo. Quindi a quel tubo che c'è, che tu chiami master, ma non è un master, ok? Il master è un altro tipo di tecnologia nell'antenna,